Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Era il 9 novembre del 1989. Insieme al muro di Berlino, lo sappiamo bene, si sgretolò un sistema politico, sociale, culturale. Ebbene, oggi gli dei dell'Olimpo e dei giochi ci chiedono di guardare oltre quel muro di cui abbiamo recentemente celebrato il 25esimo della caduta, per vedere che sport c'era nel blocco sovietico e proprio in quella Germania dell'Est che dello sport mondiale divenne superpotenza. Il primo sguardo oltre il muro lo diedero, ovvio, i tedeschi dell'Ovest. E allora abbiamo chiesto un ricordo a Josefa Idem, fenomenale campionessa della nostra canoa, tedesca di nascita e italiana per matrimonio. Avevo una grande curiosità di conoscere questi atleti. Li ho incontrati per la prima volta nel 1981, anno in cui ho fatto il mio primo campionato del mondo junior. Li vedevamo un po' come delle persone di un altro pianeta. Salvo poi scoprire che sono state proprio persone normalissime. Abbiamo avuto modo di parlare con alcuni membri della squadra dell'Est e naturalmente poi ci hanno testimoniato il fatto che sono cresciuti in un sistema sportivo del tutto diverso, un sistema sportivo che era esclusivo, loro tutta la loro giornata scolastica era in funzione agli allenamenti, mentre per noi c'era prima la scuola e poi nel tempo libero si facevano gli allenamenti. Forse c'era, come tanti dicevano, anche del doping di Stato, ma senz'altro tutte le loro condizioni, tutte le loro strutture erano in funzione al risultato massimo, quindi sicuramente erano all'avanguardia anche, cioè all'avanguardia per quanto riguarda ciò che oggi noi sappiamo. I sospetti sul doping di Stato praticato allora a Berlino Est, ma anche a Mosca, Bucarest, Budapest, Sofia e molti altri paesi divennero ben presto certezza dopo la caduta del muro. Ne parliamo oggi con Sandro Donati, ex allenatore di varie nazionali azzurre di atletica, da sempre in prima fila nella lotta al doping e autore del libro Lo sport del doping, chi lo subisce, chi lo combatte, edito da Gruppo Abele. Signor Donati, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buongiorno a tutti. Donati, Mosca mise a punto già prima del 1956 il doping di Stato. Ma è corretto dire che Berlino Est fu tra le più solerti a metterlo in pratica e a perfezionarlo? La Germania dell'Est fu tra le più pronte a recepire e sicuramente, come diceva lei, anche forse la più spietata, la più razionale in senso negativo, perché anche lì poi emersero i documenti della Stasi, della polizia segreta della Germania dell'Est, che conservava tutti i piani proprio di doping degli atleti delle diverse specialità sportive e addirittura i piani delle spie erano state inserite all'interno delle diverse squadre nazionali per controllare i movimenti degli atleti o degli allenatori, che tutti stessero in riga e che seguissero i programmi, addirittura i matrimoni pianificati nei quali, facciamo conto, atlete di livello internazionale vennero fatte sposare magari con i loro allenatori o con uomini controllati che in qualche maniera consentivano di controllarle. Georg Dreimann, È l'unico nostro autore che, pur non scrivendo niente di sospetto, viene letto anche in Occidente. Io lo metterei sotto controllo. Da domani potrete iniziare a mettere le microspie da Draiman. Non a caso ci accompagnano la colonna sonora e un passaggio del celebre film Le vite degli altri, che nel 2007 vinse l'Oscar come miglior pellicola straniera, raccontando proprio la parabola di un ufficiale spia della Stasi. Donati, la Germania Est mise a punto anche specifici prodotti dopanti, vero? Dunque, in Germania Est in modo particolare si distinsero per due procedure. Per gli sport, diciamo così, di potenza o di velocità, loro trovarono uno steroide anabolizzante, che è appunto un ormone che viene utilizzato come doping per aumentare la potenza dei muscoli. Loro ne studiarono uno che non era possibile riconoscere nelle analisi antidoping e iniziarono un lavoro a tappeto con i giovani talenti, cioè quelli che loro consideravano atleti dotati per l'atletica, per il nuoto, per il ciclismo, canottaggio, eccetera, e somministravano loro questo anabolizzante per vedere come veniva sopportato dal fegato. Se si accorgevano che i giovani avevano una tossicità molto forte che dava loro problemi, allora consideravano quel soggetto non adatto e, anche se aveva delle doti atletiche particolari, lasciavano perdere. Se invece insieme alle doti atletiche manifestava anche una tolleranza diciamo maggiore alla tossicità dell'anabolizzante, allora lo immettevano nel programma sportivo, chiamiamolo così. Complici, certo, ma anche vittime, spesso inconsapevoli, molti di quei campioni in provetta, vero Donati? Se gli atleti erano soggetti a questo trattamento nazionalizzato, diciamo così, è chiaro che non potevano sottrarsi, e quindi anche se di loro magari non avessero voluto, venivano imposti i trattamenti, lo hanno detto in maniera chiara coloro che hanno poi sporto denuncia, diciamo, una volta caduto il regime, contro quei responsabili, e ci fu in Germania Ovest un procedimento giudiziario con centinaia di questi atleti, e alcuni di loro queste cose le hanno spiegate, hanno detto che veniva loro imposto, e poi non veniva detto loro che cosa gli veniva dato, quindi hanno parlato genericamente di pasticche che dovevano mandare giù, venivano controllati in alcuni casi in cui qualcuno cercava di non prenderle perché aveva già sentito di problemi di salute che si erano manifestati nei compagni, e veniva seguito strettamente e gli veniva imposto di prenderle. Questo è stato detto proprio in sede processuale. Sotto le macerie di quel muro, ai noi, trovarono rifugio molti allenatori che poi, trasmigrati a Ovest, portarono con loro prodotti e metodi dopanti. Sì, vede, questo che lei ha toccato è un punto chiave, perché fino a che si parla del doping dell'allora Unione Sovietica o dell'allora DDR, più o meno in Occidente sono tutti d'accordo, no? Abbiamo trovato il colpevole principale, e lo erano senza alcun dubbio. È molto più difficile invece diventa il discorso quando si fa riferimento a quello che è successo poi nei paesi democratici, che appunto hanno fatto la corsa ad ingaggiare questi allenatori, qualche volta anche qualche medico. Anche l'Italia ha fatto dei contratti con personaggi di questo genere, per cui fino a che sono gli altri i cattivi, allora più o meno c'è una condivisione. Quando invece si comincia a vedere che il doping è un mostro molto più brutto di quello che si potesse pensare, limitato ai paesi dittatoriali, e allora lì è molto più difficile farlo capire. Sandro Donati, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia. Grazie e buongiorno a tutti. Doping, provette, spie e inganni, ma anche cultura dello sport di base, dello sport femminile in particolare, e talenti straordinari oltre quel muro, nell'altra Germania. E forse fu proprio una donna la stella più grande di Berlino Est. Ne parliamo con un'altra donna fenomenale dello sport azzurro. Sara Simeoni, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Beh, Sara, impossibile dimenticare le sue sfide sulla pedana del salto in alto con Rose Marie Hackermann, la prima donna al mondo a superare i 2 metri, oro olimpico a Montreal 76, proprio davanti a lei, 4 ori europei. Lei poi batté la tedesca ai Giochi di Mosca nel 1980. Da leggenda anche il suo successo, Sara, agli europei di Praga 1978. Con il suo perfetto ventrale, l'Hackermann riesce a superare 1,99. La gara continua a 2,01, misura che eguaglia il record mondiale realizzato dalla Simeoni a Brescia un mese prima degli europei. Mentre la Hackermann fallisce tutti e tre i tentativi a 2,01, la Simeoni, al contrario, riesce ad eguagliare il primato mondiale. Emozioni da brividi. Tra l'altro, Sara, lei saltava con lo stile Fosbury, quello attuale, mentre la Hackermann era una straordinaria interprete del ventrale. Diciamo che in quegli anni lì il ventrale era lo stile classico, poi è venuto fuori questo Fosbury e allora chi come me, ecco, si doveva avvicinare al ventrale, non l'aveva ancora fatto, ha voluto provare questa nuova tecnica, sicuramente in mezzo a mille difficoltà perché non si sapeva da che parte prenderlo e poi le attrezzature, le buche di caduta, i chiodi, le asticelle, insomma non sono quelle di oggi, non erano quelle di oggi, ma erano cose molto più diciamo preistoriche. Rivali certo, ma tra lei e Rosemarie nacque anche una buona amicizia, vero? Ma guardi, intanto quegli anni lì erano anni dove c'era il blocco dell'est, c'era il muro, anche i rapporti, ecco, con questi atleti non erano semplicissimi, però c'era un rapporto di cordialità e tra l'altro la Hackermann è sempre stata un'atleta molto corretta, non ha mai dato in escandescenze, cioè è sempre, vabbè che era forte, però era veramente un esempio da seguire anche guardando la sua gara, il suo comportamento. Abbiamo scoperto poi il sistema del doping di Stato in vigore oltre Cortina. Ha mai avuto sospetti su Rosemarie Hackermann? Sulla Hackermann proprio no. Proprio no, anche perché, come dicevo prima, quando ho avuto modo di vedere, non so, i suoi allenamenti prima di una competizione, che cosa faceva, mi rendevo conto che lei sicuramente non poteva non fare certi risultati per le abilità che aveva. Io ero imbranatissima, cioè lei era brava a fare qualsiasi movimento e quindi questo vuol dire partire, capito, con una base importante. Poi è chiaro, se ne sono sentite di tutti i colori, poi col fatto dei paesi, di questi paesi c'era questo clima di sospetto, no? Cosa vuole che le dica? Non è che certe pratiche venivano fatte solo nei paesi dell'est, eh? Lo sappiamo bene, ai noi. Sara Simeoni, grazie per essere stata oggi cittadina di Olimpia. Niente, un saluto a tutti, grazie a voi. Ora una breve pausa, poi torneremo a guardare al di là del muro, alla scoperta del pianeta calcio. Olimpia, miti e verità dello sport. Risuonò più volte, lo sappiamo bene, l'inno della Germania orientale sul podio olimpico. E nel 1976, ai Giochi di Montreal, la Germania Est conquistò persino l'oro, superando per 3-1 in finale la Polonia. Vertice di un movimento, quello calcistico della DDR, magari poco conosciuto, ma che almeno fino alla metà degli anni 80 riuscì a ottenere non pochi risultati interessanti. Ne parliamo oggi con un campione azzurro che, pensate, proprio contro la Germania Est, il 14 aprile 1980, 82 a Lipsia fece il suo esordio in nazionale. Benvenuto a Olimpia, Beppe Bergomi. Grazie. Allora Beppe, quel pomeriggio a Lipsia, azzurri sconfitti per 1-0, gol di Hause al 20°, ma per te rimane davvero una giornata indimenticabile, penso. Ecco, che atmosfera c'era nel ritiro azzurro, nel vostro ritiro, all'idea di affrontare i tedeschi dell'Est, seppur in amichevole? Io ho in mente di quella partita che si giocava ancora con i pali quadrati e quindi di legno,

orientale, passata in vantaggio la Germania orientale con gol di Sparwasser, incredibile alla mezz'ora di gioco della ripresa. Sparwasser. La Germania ovest cerca la rimonta, ma eccolo il fischio finale e la gioia degli orientali che esplode. Melina dei tedeschi orientali, sbagliato il passaggio, ne approfitta Beckenbauer, ribatte però lo stesso Weise, capriole di gioia dei tedeschi orientali, invasione di fotografi in campo, si immortala la scena, la Germania orientale ha battuto ad Amburgo per 1-0 la Germania occidentale, una partita valida per il gruppo 1 dei mondiali ed ha quindi vinto, così come aveva promesso Buschner, il girone eliminatorio. Ha segnato al 30° della ripresa su azione di contropiede Sparwasser. Beckenbauer e soci solleveranno al cielo la Coppa del Mondo battendo 2-1 in finale l'Olanda a Monaco di Baviera. I tedeschi orientali si areneranno invece nel girone di semifinale. Ma vuoi mettere la gioia di vincere il derby? Beppe Bergomi, abbiamo ripercorso momenti leggendari della storia di quel calcio. L'ultima Germania Ovest della storia del calcio fu, ai noi, quella che vinse i mondiali di Italia 90 a Roma, sfuggiti a te e agli altri azzurri, di cui eri il capitano per volere degli dei dello sport e per i guizzi di Maradona e Caniggia. All'Inter avesti come compagno di squadra, tra l'altro, anche un grande tedesco dell'Est, Matthias Sammer, che però non mantenne le promesse. Più in generale, nel calcio della grande Germania, oggi, la vena arrivata dall'Est ha lasciato qualche traccia, secondo te? Ma secondo me rimane poco. Come hai detto tu, la grande Germania adesso, insomma, ha inglobato tutto quanto e diventa difficile, insomma, intravedere quello che è stato, insomma, la Germania Est del passato. Ecco, come ho detto prima, un calcio basato soprattutto sul fisico, sulla condizione atletica, che ha espresso pochi talenti. Poi io sì, ricordo anch'io vagamente, insomma, le squadre che hai ricordato tu, il Magdeburgo del 74 che vinse in finale con il Milan, oppure quella partita storica del Cardai Siena contro la Roma che rimontò da 3-0 a 4-0, ma di quel calcio secondo me non è rimasto nulla. Davvero emozionante questo viaggio nello sport della Germania dell'Est oltre dall'altra parte del muro di Berlino. Per l'appuntamento con Olimpia di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre di Olimpia dal nostro sito web radio24.it, dove le troverete tutte in podcast, e potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima, sempre alle 16:30. Ancora un saluto a tutti.